America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Beh, sono già qui perché questa sera arriverà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ma intanto partiamo con una notizia. Did you have any idea that this battle, the Vincent Strike Force, was actually moving closer towards Australia, away from the region, even as we were all given the impression it was moving towards the Korean Peninsula? Avete sentito dal newscast televisivo? Beh, c'è stato un piccolo errore. La portaerei Carl Vinson, che doveva essere già con la sua flotta davanti alle coste della Corea del Nord, in realtà nell'oceano indiano, a 3500 miglia di distanza dalla penisola coreana, perché deve fare delle manovre con la marina australiana. Dunque, piccola svista, l'escalation militare che sembrava imminente anche da parte della Corea del Nord è rientrata almeno per ora, perché la flotta americana arriverà comunque entro una decina di giorni davanti alle coste della Corea del Nord. Ieri sono cominciate le riunioni del Fondo Monetario Internazionale. Cominciamo dalle previsioni economiche del World Economic Outlook, sempre molto importante. L'Italia avrà una crescita dello 0,8% sia quest'anno che nel 2018, è un dato positivo. Certo, sarebbe bello poter avere di più, soprattutto se pensiamo che l'Europa sta crescendo a un ritmo mediamente dell'1,7%. Ci sono ragioni ovviamente che ci frenano, soprattutto dovute al pesante debito pubblico. Crescita mondiale del 3,5%, un quadro tutto sommato positivo, di cui vorrei parlare qui ai microfoni di America 24 con Carlo Cottarelli, direttore esecutivo italiano proprio al Fondo Monetario Internazionale. Buongiorno Cottarelli. Buongiorno. Allora, beh, cominciamo da questi dati italiani. Mi sembra che uno 0,8% sia tutto sommato positivo, ma la domanda è: perché il resto dell'Europa cresce mediamente all'1,7 e noi soltanto allo 0,8? Dunque, ci sono due considerazioni da fare. Uno, sappiamo che ci portiamo dietro da diversi anni tanti problemi strutturali che si stanno risolvendo, ma ci vuole il tempo a risolverli. L'altra cosa che ci dobbiamo ricordare è che, insomma, siamo impegnati in una fase di riduzione del deficit che proseguirà anche nel 2018, e quindi quando si riduce il deficit ovviamente si tende a crescere un po' di meno. Credo sia una cosa però necessaria da fare, questa di ridurre il deficit e raggiungere il pareggio di bilancio, visto il livello del debito che abbiamo. Ecco, però il deficit è al 2,4% quando i parametri di Maastricht chiedono il 3%. Dunque non potremmo invece dire: ma non possiamo pensare a qualche politica espansiva e magari cercare poi di ridurre il debito grazie a un aumento della crescita, del lavoro e degli introiti fiscali? No, io non credo. Prima di tutto le regole fiscali europee non ci impongono soltanto di essere sotto al 3%. Ci chiedono di arrivare al pareggio di bilancio. Io credo che quello di cui l'Italia ha bisogno è di una crescita permanente, stabile, non quello che si può ottenere con una espansione fiscale che noi comunque non ci possiamo permettere, visto il livello del debito che abbiamo. Non credo che sarebbe credibile espandere la politica fiscale per l'Italia, non credo che i mercati ci crederebbero e non credo che questo avrebbe effetto sulla crescita stessa, perché un'espansione fiscale che non è credibile non ha un grosso effetto. Il moltiplicatore basso in questi casi. Ecco, se invece di un'azione mirata solo sull'Italia ci fosse un'azione invece europea, con la Germania in testa per rilanciare la crescita, lei questo lo vedrebbe in modo più incoraggiante, più positivo? Due cose. Prima di tutto, negli Stati Uniti il deficit si è ridotto in questi anni. Quindi c'è stata una politica di riduzione graduale del deficit e quindi non c'è stata una politica fiscale particolarmente espansiva. C'è poi da tenere conto che comunque gli Stati Uniti non sono l'Italia, perché gli Stati Uniti hanno il dollaro e mettono una valuta di riserva e sono protetti dagli attacchi speculativi per questa cosa. In Europa, che io ho sempre sostenuto che sarebbe utile se ci fosse un bilancio europeo più forte, più grande, se ci fosse a livello di Europa una politica di investimenti. Però io credo che sia anche necessario dire, insomma, vista la situazione europea, anche politica, a meno di grosse sorprese non credo che cambieranno molto le cose in Europa da questo punto di vista. Ci può essere un'azione, ma insomma noi dobbiamo pensare che dobbiamo risolvere i nostri problemi senza pensare in qualche modo all'aiutino che possa venire da un bilancio europeo, perché non ci sarà, credo, nei tempi brevi un grosso cambiamento da questo punto di vista. Ecco, torniamo al rapporto debito-PIL al 132,8%. Tra l'altro ho visto ieri un'agenzia della Radiocore del nostro gruppo che ha dato in esclusiva la notizia che lei a ottobre lascerà il Fondo Monetario Internazionale e tornerà in Italia. Quindi ci racconti di questa sua decisione e poi magari la colleghiamo un momento al rapporto debito-PIL. Ma dunque, io a ottobre raggiungerò, ho fatto 3 anni, a me l'Italia manca sempre, quindi quando sono tornato qui a Washington per motivi personali sono tornato, ma con l'idea comunque di tornare in Italia dopo un certo numero di anni. Credo che sia importante per me cercare di dare un contributo a questo dibattito sul debito pubblico facendolo in Italia piuttosto che qui, perché credo che abbiamo ancora un problema importante, quello che io ho chiamato il macigno del debito pubblico, che alla fine è una delle cause per cui cresciamo poco nel lungo periodo, non in un singolo anno, ma tendenzialmente cresciamo poco perché abbiamo un debito molto pesante. Ecco, lei tra l'altro nel governo Letta era lo zar del debito pubblico, per la ristrutturazione del debito pubblico, e mi diceva che insegnerà alla Bocconi e che sta cercando di creare proprio un centro per lo studio sul debito pubblico italiano. Ecco, ci racconti di questa sua iniziativa. A me piacerebbe, non so se riuscirò a farlo, mi piacerebbe creare un osservatorio sui conti pubblici in Italia, con l'obiettivo da un lato di rendere più trasparente, più chiaro un dibattito che sempre dal punto di vista tecnico sembra sempre difficile da capire, in realtà credo si possono spiegare le cose in maniera semplice, e dall'altro quello comunque di spingere anche l'idea del fatto che dobbiamo avere i conti in ordine, che non possiamo continuare ad avere un debito tra i più alti al mondo e che alla fine avere un debito così alto ci espone al rischio di speculazione. Essere esposti al rischio di speculazione vuol dire essere schiavi dei mercati finanziari. Ecco, io credo che ridurre il debito renderebbe l'Italia più libera. E qual è la strada secondo lei più interessante per ridurre il debito? Dunque, io credo che le operazioni di privatizzazione, di vendita vadano bene, però non credo sia realistico, credo che sia prudente fare quello che ha fatto il governo, cioè mettere nel DEF, nel documento di economia e finanza, entrate di privatizzazione nei prossimi anni abbastanza modeste, se poi saranno di più tanto meglio, ma non è da lì che può arrivare la soluzione al problema del debito pubblico. La soluzione del problema del debito pubblico può venire soltanto dal raggiungimento del pareggio di bilancio, e a questo punto ci pensa la crescita economica. Una volta raggiunto il pareggio di bilancio, a erodere il rapporto tra debito pubblico e PIL. Bene, dunque auguri per questo suo osservatorio sul debito pubblico. Grazie davvero, credo l'Italia ne abbia bisogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei, da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, allora Cottarelli, scegliamo una canzone adatta al momento, cosa le viene in mente? Ma visto che siamo sempre a correre dietro all'ultimo numero, direi Born to Run di Springsteen. Born to Run di Bruce Springsteen, una corsa continua. Suicide rap, we gotta get out. Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!